nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Sfolgora il sole di Pasqua, risuona il cielo di canti, esulta di gioia la terra. Dagli abissi della morte, Cristo ascende vittorioso, insieme agli antichi padri. Accanto al sepolcro vuoto, invano veglia il custode, il Signore è risorto. O Gesù, Re immortale, unisci alla tua vittoria i rinati nel battesimo. Irradia sulla tua Chiesa, pegno d'amore e di pace, la luce della tua Pasqua. Sia gloria e onore a Cristo, al Padre e al Santo Spirito, ora e nei secoli eterni. Amen. Le opere delle tue mani, Signore, mi danno gioia. Alleluia. È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo. Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa a 10 corde e sulla lira, con canti sulla cetra. Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani. Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce. Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore. Ecco i tuoi nemici, o Signore. Ecco i tuoi nemici periranno, saranno dispersi tutti i malfattori. Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente. I miei occhi disprezzeranno i miei nemici, e contro gli iniqui che mi assalgono, i miei orecchi udranno cose infauste. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro di Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Le opere delle tue mani, Signore, mi danno gioia. Alleluia. Sono io che do la morte e la vita, io percuoto e io guarisco. Alleluia. Ascoltate, o cieli, io voglio parlare. Oda la terra le parole della mia bocca. Stilli come pioggia la mia dottrina, scenda come rugiada il mio dire. Come scroscio sull'erba del prato, come spruzzo sugli steli di grano. Voglio proclamare il nome del Signore, date gloria al nostro Dio. Egli è la roccia, perfetta è l'opera sua, tutte le sue vie sono giustizia. è un Dio verace e senza malizia. Egli è giusto e retto. Peccarono contro di lui i figli dei generi, generazione tortuosa e perversa. Così ripaghi il Signore, o popolo stolto e insipiente. Non è lui il Padre che ti ha creato, che ti ha fatto e ti ha costituito. Ricorda i giorni del tempo antico, medita gli anni lontani. Interroga tuo padre e te lo farà sapere, i tuoi vecchi e te lo diranno. Quando l'Altissimo divideva i popoli, quando disperdeva i figli dell'uomo, egli stabilì i confini delle genti, secondo il numero degli israeliti. Porzione del Signore è il suo popolo, sua eredità e Giacobbe. Egli lo trovò in terra deserta, in una landa di ululati solitari. Lo educò, ne ebbe cura, lo custodì come pupilla del suo occhio. Come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati, egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali. Il Signore lo guidò da solo, non c'era con lui alcun Dio straniero. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sono io che do la morte e la vita, io percuoto e io guarisco. Alleluia. Alleluia. Una splendida corona di gloria hai donato al tuo Cristo. Alleluia. Oh Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. Con la bocca dei bimbi e dei lattanti, affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani. Tutto hai posto sotto i suoi piedi. Tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare che percorrono le vie del mare. Oh Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Una splendida corona di gloria hai donato al tuo Cristo. Alleluia. Padre, vuole leggere lei? Dio ordina a tutti gli uomini di tutti i luoghi di ravvedersi, poiché egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare la terra con giustizia per mezzo di un uomo che egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti.

disponi sempre al bene i nostri cuori, Signore, perché nel continuo sforzo di elevarci a te possiamo vivere pienamente il mistero pasquale. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te in unità con lo Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore, ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Carissima Ada, io e padre Donato, come avrai inteso, siamo a studiare un po' di italiano. Bene, bene, continuate pure. Ecco, allora il padre Donato ti saluta e ti augura una giornata bella. E anche a lui, altrettanto. Pace e gioia, Ada. E anche con molti progressi in italiano. Grazie. Ecco, allora vediamo, fermi così padre, fermi così, vediamo se riesco a fare, perché poi Ada vuole vedere. Ok, perfetto. Bene, allora Ada, ci vediamo a mezzogiorno e un quarto. Va bene, Claudio. Grazie. Buon lavoro. Tardi, arrivederci da padre. Grazie.